Hashtag Autotrasporti. Un paese che non riesce a fare sistema, condizione che riflessa nel settore del trasporto delle merci e della logistica, significa reti inadeguate e sfilacciate, un aggravio di costi, scarsa possibilità di competere a livello internazionale. Di questo si è parlato oggi a Roma nel convegno Italia Disconnessa, promosso da Confcommercio e Conftrasporto. Per noi c'era Francesco De Remigis. Con il taglio dei tempi e dei costi sul trasporto, il PIL aumenterebbe di 7 decimi di punto, a dirlo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, aprendo il convegno L'Italia Disconnessa. 5 proposte avanzate dall'organizzazione per evitare di continuare a pagare una tassa logistica che, secondo Sangalli, ci costa 11 miliardi di euro l'anno. Una delle soluzioni possibili per alleggerire il traffico, l'apertura notturna al trasporto dell'alta velocità tramite la cosiddetta metropolitana delle merci. Un'idea, ricorda Paolo Uggè, presidente FaiConf Trasporto, tutt'altro che nuova. La lanciò Signorile nel 1984. Utilizzando di notte i binari dell'alta velocità, riusciamo a bypassare, in attesa che realizzino le sagome necessarie per far passare questi treni con sugli automezzi, e vorremmo adesso con il ministro Delrio rilanciare questa proposta. Il progetto interessa le due grandi linee, quella tirrenica e quella adriatica. Secondo Confcommercio si riuscirebbe a togliere dalle strade, una volta a regime, oltre 13.000 veicoli pesanti. Gli autisti dei TIR suggeriscono la creazione del registro internazionale dell'autotrasporto per combattere il fenomeno della delocalizzazione e permettere agli operatori italiani di competere con la concorrenza dell'est. Francesco De Remigis, Radio 20 24, il Sole 24 Ore, Roma. A proposito di reti vecchie inadeguate, se non insicure, oggi pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture sono convocati i rappresentanti delle associazioni di autotrasporto territoriali della Sicilia, da un mese e mezzo spezzata in seguito al blocco della Palermo-Catania, con danni pesantissimi a carico delle imprese. Al centro dell'incontro la richiesta di interventi di sostegno a favore della categoria dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo. Andrea Ferro, Radio 24, il Sole 24 Ore. Hashtag Autotrasporti.